vita, così com'è. Amo conoscere la verità, dall'alba al tramonto, mi nutro dall'albero della vita. E sento la luce dentro di me, e mentre cancella la mia oscurità, il sole sta sorgendo, mi aspetta una lunga giornata. Anima e corpo, è fragile e forte, è freddo, caldo, liscio, ruvido. Sogno il giorno che non tramonta, e cerco il fiore che non appassisce. Vivo ai margini di questa società. Sono come te, ho visto quelli come me combattere e perdere, sudare e piangere per te. Ho udito lamenti e lacrime, toccato sabbia e polvere, terra e acqua, vino e sangue. Anima e corpo, è fragile e forte, freddo, caldo, liscio, ruvido. Sogno un giorno che non tramonta, cerco il fiore che non appassisce. Vivo ai margini di questa società.